il più male, né brutto né bello, né buono né fatale, questo ritornello dà la gioia di cantare. Laggiù lo cantano tutti con ardore, qua giù lo canterete tutti in cor. Il mio ritornello, simpatico e carino, mi sarà vicino giorno e notte, notte di. Chi l'ha scritto, ma chi l'ha fatto, ma è per tutti un gran mistero. Chi l'ha scritto, ma chi l'ha fatto, ma è per tutti un gran mistero. Ma si canta sì, si ricanta sì, ed è sempre un gran piacere. Ma si canta sì, si ricanta sì, ed è sempre un gran piacere. Dammi un paesello che è molto originale, ho portato un ritornello che non è poi male, né brutto né bello, questo ritornello dà la gioia di cantare. Laggiù lo cantano tutti con adore, qua giù lo canterete tutti in cor. Il mio ritornello, simpatico e carino, mi sarà vicino giorno e notte, notte di. Dal mio paesello che è molto originale, dal mio paesello che è molto originale, ho passato un ritornello.